Sometimes me sent on a superstar, sometimes not. Sometimes occur supervince, sometimes I've lost. Ma c'è un istinto dentro di me che seguirò. Ma non importa che ora fai, a life can change. Like a rolling stone, semplicemente vivrò, sempre in cerca di un sogno, mi perdo un po', sometimes I know. C'è un istinto dentro di me che guiderà, e non importa che strada fai, if you can fly, like a rolling stone.